Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchisi. 21 febbraio, questa puntata è dedicata agli invisibili delle elezioni. C'è Amnistia, Giustizia e Libertà, che è la nuova lista dei radicali, c'è la destra di Storace, c'è Futuro e Libertà di Gianfranco Fini, da settimane oscurato dalla leadership di Mario Monti, e poi ci sono una miriade di piccole forze politiche che al termine dello scrutinio normalmente andranno contate sotto l'indice gli altri, che però poi di fatto rosicchiano voti ai grandi schieramenti. Sono dunque gli invisibili di queste elezioni, a loro Italia in controluce dedica per par condicio la puntata odierna, e vi chiediamo se c'è stata una certa concentrazione sui grandi schieramenti di campagna elettorale, e quindi anche una sorta di discriminazione degli altri piccoli partiti, e perché questa sorta di invisibilità rispetto agli altri partiti che non siano i grandi schieramenti, cioè i soliti PDL, PD, Monti. I nostri sms 349-238-6666. Innanzitutto Francesco Storace non si sente un invisibile, lo ha intervistato poco fa Maria Luisa Pezzali. Io decisamente no, perché insomma aver avuto l'onore di guidare la coalizione di centrodestra alle regionali del Lazio mi ha reso tutt'altro che invisibile. Credo che si sia sentita una robusta nostra presenza. A livello della campagna nazionale? Beh, i nostri militanti, dalle notizie che ho, hanno avuto anche un vantaggio indiretto. Non dimentichiamo mai che il mio partito ha scelto di mettere il nome nel simbolo proprio per essere sempre più identificabile come l'unica destra coerente. Noi oggi possiamo raccontare una bella storia, quella di una destra che sta nel centrodestra, da cui fu espulso 5 anni fa, perché non c'è fine, perché non c'è stato il tentativo di far caseggiare a Monti la coalizione. Insomma, abbiamo una storia di coerenza che possiamo mettere in campo rispetto a tutti gli altri. Quanto possono pesare sul voto per voi gli scandali della Regione Lazio? Ma guardi, noi siamo usciti indenni come forza politica, e che sono quello che ha garantito ai cittadini che non dopo 5 anni, ma dopo 24 ore sparirà ogni traccia di auto blu. Siamo quelli che hanno deciso di ridurre da 70 a 50 i consigli regionali, di un terzo, mentre il Parlamento non ha ridotto nemmeno di un'unità deputati e senatori. La Sicilia ha votato con 90 deputati regionali, la Lombardia voterà per 80. Insomma, ci sono anche cose positive, non solo quelle negative. Cosa pensa dell'iniziativa dei due candidati veneti di Fratelli d'Italia che hanno postato su YouTube quella sorta di spot anti-gay? In generale io giudico i partiti dai leader, non dai candidati. Insomma, ho visto che la Meloni l'ha preso le distanze e credo che abbia fatto bene. Questo dunque Francesco Storace della destra, che come dicevo al microfono della nostra Maria Luisa Pezzali non si sente un invisibile. Vi abbiamo chiesto se secondo voi c'è stata una concentrazione in questa campagna elettorale sui grandi schieramenti e una decisa discriminazione invece dei piccoli partiti, e perché questa cosiddetta invisibilità dei nei confronti soprattutto di altri partiti che non siano il PD, PDL, Monti e solo nell'ultimo periodo il Movimento 5 Stelle. Qualcuno si sta già affacciando al 349-238-6666, e vediamo dunque di leggervi alcuni dei messaggi. C'è Guido da Bergamo che dice che le liste piccole sono solo centri di potere locale e rappresentano un controsenso nella politica del maggioritario. I grandi partiti PDL, PD, Monti, questo è quello che dice Gianni da Venezia, un po' prendendoci in giro. È una mera questione di numeri, più voti prendi più fai share in TV, più copie di giornali vendi, dice Angelo da Catania. Questi sono i vostri sms 349-238-6666. Vi chiediamo dunque il perché di questa invisibilità nei confronti di alcuni piccoli partiti. Continuiamo con Benedetto Della Vedova, che in realtà di Futuro e Libertà Futura Libertà non è un piccolo partito, perché comunque sta dentro all'interno della lista con Monti per l'Italia, ma oggettivamente Monti ha oscurato in questi giorni di campagna elettorale Gianfranco Fini. Certamente, secondo Della Vedova, la campagna elettorale è stata necessariamente dominata dai leader delle grandi coalizioni, lo ha imposto Berlusconi, ha detto in questa intervista a Maria Luisa Pezzale. Questa è una campagna elettorale innanzitutto che è stata tutta televisiva, tutta a mio avviso troppo emotiva e che ha coinvolto soprattutto i leader delle coalizioni, ma noi sulla coalizione di Monti ci abbiamo investito prima ancora che ci fosse, quando ancora al governo c'era Berlusconi, quindi non è un problema per noi. Lei ritiene, altri lo hanno osservato, ci sia stata una sovraesposizione di Monti? Ma guardi, la campagna elettorale è stata imposta attraverso i media, in parte da Berlusconi, che ha un pezzo di media che questa volta sono stati schierati molto più di quanto non lo fossero nelle due campagne elettorali che io ho seguito più da vicino, cioè 2006-2008. Io credo che lui abbia scelto di esserci fino in fondo e abbia fatto bene in una campagna molto difficile, dominata dalla memoria breve. Noi dovremmo essere ancora, come italiani, innanzitutto spaventati del rischio di tornare sull'orlo del precipizio dal quale il governo Monti e Monti in prima persona ci hanno tirato fuori. Al di là della smentita ufficiale, davvero un governo PD-SEL sarebbe sgradito alla Merkel? Ma guardi, non lo so. In Germania l'SPD di Schröder, la sinistra tedesca, ha rotto a sinistra per portare la Germania sul cammino delle riforme. È chiaro che Bersani ha fatto una scelta diversa. Questo però è un ragionamento politico che immagino facciano in tanti in Italia e anche fuori dall'Italia, essendo preoccupati di come verrà gestita la terza economia dell'euro. Ci sono tanti militanti di 5 Stelle che parlano e stanno scrivendo sul 349-238-6666. Laura da Treviso dice che i partiti politici sono finiti, che non esiste più un ideale alla base come era un tempo e che deve rinascere una nuova Italia con movimenti nuovi, quindi anche con nuovi partiti e senza interessi consolidati nel tempo. Ma io vi ho chiesto: come mai secondo voi questa invisibilità nei confronti di alcuni dei piccoli partiti, da Amnistia, Giustizia e Libertà, cioè i radicali, a Future Libertà, alla destra di Storace e molti molti altri, al 349-238-6666. Vediamo chi, come Giuseppe Rosso di Vita, candidato presidente per la Regione Lazio e capolista per Amnistia, Giustizia e Libertà, punta il dito contro la violazione delle norme sulla par condicio, soprattutto per quanto riguarda il servizio pubblico, cioè la RAI. Lo ha intervistato sempre Maria Luisa Pezzali. Questa invisibilità deriva dalla violazione di una serie di norme, in particolar modo da parte della concessionaria del servizio pubblico, che viola appunto le norme sulla par condicio. Ai cittadini è precluso di conoscere altro di diverso da Berlusconi, Bersani, Monti e aggiungerei anche Grillo. Quanto i temi della giustizia sono entrati in questa campagna elettorale, i temi a voi cari? Beh, a causa della nostra invisibilità purtroppo molto poco. I cittadini devono sapere che la bancarotta del sistema giustizia, fotografata dai numeri, 10 milioni di procedimenti pendenti e arretrati tra civile e penale, che coinvolgono più di 20 milioni di persone che non riescono ad ottenere giustizia, 170.000 prescrizioni all'anno, cioè 170.000 vittime di reati che non riescono ad avere giustizia, la situazione delle carceri per cui siamo condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, processi che durano decine di anni per cui siamo condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Di tutto questo gli altri candidati non parlano e non fanno. Berlusconi per 20 anni ci ha preso in giro dicendo che avrebbe riformato la giustizia, si è fatto le leggi a personam, ma la sinistra ha tra i suoi candidati deputati entranti e deputati uscenti una bella rappresentanza della lobby dei magistrati. Monti, che per quanto riguarda il profilo economico, diciamolo, il debito della giustizia è un debito che incide sul debito pubblico in maniera importantissima ed è una questione che non permette all'Italia una crescita economica, perché questo ci costa un punto di PIL, nessuno lo dice. Avete ascoltato un'altra puntata di Italia in Controluce. Quest'oggi abbiamo voluto dedicare Italia in Controluce soprattutto ai piccoli partiti, quelli di cui normalmente purtroppo non si parla perché c'è stata una concentrazione e attenzione soprattutto sui grandi schieramenti. E vi saluta qui Daniele Biacchesi, vi ricordo la pagina e il gruppo che trovate su Facebook, Italia in Controluce. Poi avete anche la possibilità di contattarci attraverso Twitter in Controluce e poi la mail controluce@radio24.it. Domani alla stessa ora è l'ultima giornata di campagna elettorale, quindi racconteremo un po' quali sono i cosiddetti ultimi fuochi.